nelle ore più vuote della notte, nel bianco del silenzio, spaventato, raccolgo una risacca di conchiglie e i legni dei fondali che frantuma la tempesta che tormenta Prodi, dove la medusa livida s'asciuga sino a scomparire in un filo d'alga. A chi le calpesta rotte sembrano residui scagliati a caso dall'onda, ma sono i giorni sciupati e gli anni che hanno perso la forza del tempo. Non è d'acqua il mare, non di luce il cielo, e tra l'acqua e la terra corre una linea senza confine, misura paziente dell'infinito. I fiumi all'improvviso senza sponde, e un astro fermo nel suo punto estremo scaglia di luce su un corpo sacro. En les hores més buides de la nit, en el blanc del silenci esturat, recullo a la ressaca conquilles i les fustes dels fondals que trosseja la tempesta que trasbalsa marratges on la medusa lívida s'aixuga fins a desaparèixer en un fil d'alga. Per qui la xafa fetes miques semblen residus emborbollats, potser per l'ona, si bé són els dies xuclats i els anys que han perdut la força del temps. No és d'aigua el mar, no de llum el cel, i entre l'aigua i la terra corre una línia sense confí. Mesura pacient de l'infinit, els rius de cop sense ribes, i un astre fix en el seu punt final, escata de llum sobre un cos sacre.